Giovedì 11 settembre del 2014, 87.9, la modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180-4001, intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185, Roma. Oppure basta andare sul sito internet della radio, ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione Sostieni per la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema Visionari il giovedì dalle 14 alle 15. Ce la prendiamo un po' più comoda, un po' più in anticipo, e magari sforeremo anche un po'. Ci sono tanti ospiti quest'oggi. Dicevo, il cinema su Radio Onda Rossa. Per saperne di più sulla scaletta di quest'oggi basta consultare il sito della radio, alla voce trasmissioni Visionari troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 11 settembre, nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche tutto l'archivio del 2014 e del 2013. Idem per la pagina Facebook, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. E nel ricordarvi anche che oltre alla diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza potete ascoltarci anche in streaming dal sito della radio ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta. E nel dire questo mi sono intanto messo in collegamento con Giovanni Don Francesco, regista del documentario The Stone River. Ciao Giovanni, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, complimenti, ho visto il documentario pochi giorni fa, era stato al Festival del Cinema di Roma, era stato anche a Torino se non sbaglio. Per chi ci ascolta raccontiamo di cosa si tratta. Sì, piccola precisazione, è stato a Torino, sì, al Cinema Ambiente, non al Festival al di Cinema Torino. Ambiente, Si tratta di una storia piuttosto complessa che prende le mosse da un fatto storico, una migrazione di scalpellini, tagliatori di pietra, scultori, che alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, lasciarono la città di Carrara in Italia, ma altri luoghi dove si lavorava la pietra in Italia e all'estero, nel resto d'Europa, per attraversare l'oceano e arrivare negli Stati Uniti, in Vermont, dove si stavano aprendo queste enormi cave di granito, e quindi c'era bisogno di manodopera specializzata sulla pietra. E bene, il film prende spunto da questa migrazione per raccontare le vicende di questo piccolo paese in gran parte italiano in Vermont, che si chiama Barry, e diciamo che è stato girato in un modo molto particolare, perché ha cercato di mettere in contatto il passato di questa piccola città con il suo presente. Qui sta anche il senso del titolo, che evoca sicuramente il capolavoro di Edgar Lee Master, e nelle parole insomma dei vecchi abitanti del luogo che sono conservati, c'è un archivio a cui tu hai avuto accesso, credo che sia andata così, sì. No? Esatto, il film si basa fondamentalmente proprio su queste interviste di cui parli, questi testi scritti. Si tratta di vecchie interviste degli anni 30, fatte da alcuni scrittori americani che furono inviati da Roosevelt nell'ambito di un programma federale che si chiamava appunto Federal Writers Project, e questi scrittori furono inviati un po' in tutta la provincia americana, e in particolare alcuni arrivarono in questo paese del Vermont per intervistare la gente che vi viveva. In gran parte ovviamente si trattava di cavatori o di scultori, scalpellini. questo è particolarmente interessante perché lo scopo di questo progetto era proprio quello di raccontare l'America durante la Grande Depressione, durante la crisi, ed è interessante vedere come, diciamo, il rapporto alla, come ci si rapportava con la crisi all'epoca, pur negli Stati Uniti, insomma, noi adesso sappiamo bene, vediamo tutti i giorni che con la crisi la prima cosa che si fa è si taglia sulla cultura. All'epoca, in periodo di crisi, il governo americano investiva sulla cultura inviando scrittori, non soltanto, perché poi molti furono anche i fotografi, i registi, nella provincia proprio per raccontare questo momento difficile. Sì, da una parte c'è anche un parallelo con l'oggi, perché comunque si tratta di un luogo piuttosto inospitale, molto freddo e anche poco vissuto, una provincia un po' abbandonata a se stessa, e appunto crea questo parallelo rispetto agli anni passati e anche prima della Grande Depressione, quando invece era un centro fiorente, riguardo quando l'attività legata al granito era in piena fioritura, e poi invece tutto andò in crisi, ma insomma gli strascichi di quella crisi, un centro nato per quell'attività, proseguono ancora oggi, insomma è una realtà che sembra senza grosse prospettive. Sì, questo è vero, effettivamente c'è stata una grossa crisi nel settore a partire già dagli anni 40, ma diciamo che si è accentuata poi negli anni 70 e 80, quando il settore ha iniziato ad avere la competizione dei lapidi o delle pietre che arrivavano dall'India, dalla Cina. È effettivamente in crisi la lavorazione del granito in Vermont, ma comunque rimane pur sempre la principale fonte di sostentamento per una buona parte della città. È vero che c'è questa relazione, diciamo, tra il presente e il passato, ed è una relazione che ho cercato di mettere in luce chiedendo agli abitanti di oggi, che dunque sono i discendenti degli immigrati italiani ed europei che arrivarono all'inizio del secolo, di leggere queste interviste che furono rilasciate negli anni 30 dai loro avi. E effettivamente nel film, nel girare il film, ci sono state delle sorprese, perché questa sorta di identificazione si è rivelata alla fine addirittura molto più forte di quanto non mi attendessi. Sì, e poi comunque non tutto è venuto per nuocere, nel senso, prima si moriva di silicosi, adesso invece con le apparecchiature meccaniche, insomma, un po' di morti sul lavoro o legate a quell'attività comunque si possono evitare. Sì, questo è vero, diciamo che la situazione è migliorata. Diciamo, il retroscena che non abbiamo raccontato è che effettivamente questi immigrati, una volta arrivati a Barrie, dopo aver iniziato a lavorare appunto il granito, nel giro di pochi anni una gran parte di loro iniziò a morire di silicosi. Questo proprio perché era una lavorazione nuova, diversa. Il granito contiene il silicio che il marmo invece, per esempio, non contiene, quindi si trovarono di fronte a questa terribile malattia che li decimò nel giro di pochi anni. Una buona parte della causa di questa tragedia fu dovuta anche al fatto che proprio in quegli anni si iniziavano a utilizzare degli strumenti come martelli pneumatici, scalpelli pneumatici, e quindi gli strumenti pneumatici facevano sì che aumentasse in maniera esponenziale la quantità di polvere di silicio che si alzava nei luoghi di lavoro. Nel corso degli anni la situazione è migliorata, negli anni 30-40 in particolar modo sono stati introdotti gli aspiratori che hanno, diciamo, mitigato l'effetto della polvere di silicio. Ciò non toglie che tuttora, al giorno d'oggi, con mia grande sorpresa ho dovuto constatare che c'è ancora gente che si ammala di silicosi, magari non lo fa a 40 anni, a 30 anni, a 40 anni, come succedeva all'epoca, e non morivano a 30 anni, a 40 anni, si ammalano un po' più tardi, ma comunque è un problema che rimane. Uno degli aspetti interessanti del film, più suggestivi, è quello sempre legato a questi ricordi, queste testimonianze lette e recitate oggi dai posteri, è questo richiamo all'immaginario classico americano, nel senso una comunità nata attraverso uomini provenienti da più parti dell'Europa. Dicevi l'Italia, ma anche la Spagna, la Scozia, l'Irlanda, è un po' l'immaginario classico americano questo, no? Beh sì, certo, da un certo punto di vista sembra quasi di assistere a un film western che si svolge sulla costa est anziché sulla costa ovest degli Stati Uniti, ma c'è questo spirito quasi dei pionieri che arrivavano lì e davano vita ad una nuova comunità. Questo esce fuori in maniera molto forte da queste interviste, che diciamo nel leggerle si sente anche proprio un'impronta letteraria molto forte dell'epoca, in certi momenti sembra veramente di leggere dei romanzi di Steinbeck o di Saul Bellow. La curiosità adesso è legata al fatto della realizzazione del documentario. Come sei venuto a conoscenza di questa storia e come hai deciso di filmarla poi? Diciamo che vengo da Firenze, quindi stando non troppo lontano dalle cave di Carrara, ho sempre subito in qualche modo la fascinazione delle cave, dove per fascinazione delle cave intendo anche questa sproporzione enorme che vi si ritrova tra la grandezza della natura in quei luoghi e queste grandi pareti di pietra, e in rapporto invece la dimensione minuscola degli uomini che di fronte a queste pareti di marmo sembrano veramente quasi delle formiche, e quindi la loro vita fragile e effimera in rapporto alla pietra invece che ha una durata eterna. Quindi già partivo da questa base di fascinazione per il mondo della pietra, e quando ho saputo che di questa migrazione negli Stati Uniti, diciamo, mi sono convinto a partire per fare un sopralluogo, ed è stato negli Stati Uniti, appunto arrivando a Barry, che ho scoperto l'esistenza di queste interviste, che erano talmente belle, mi hanno talmente commosso che mi hanno in qualche modo obbligato da sole a occuparmi di loro e a lavorarci sopra. Tra l'altro, nel caso di molti italiani di Carrara, si trattava di eccellenze, si trattava di veri e propri artisti. Sì, senz'altro, questo è stupefacente, perché quando parliamo di lavoratori della pietra molto spesso immaginiamo appunto i cavatori, i scalpellini, comunque una manovalanza artigianale che sì, importante e di prestigio, ma insomma che arrivava fino a un certo punto in quanto ad esprimere la propria abilità nel lavorare la pietra, mentre invece appunto negli Stati Uniti dell'inizio del secolo c'era bisogno anche di grandi opere che venivano costruite, quindi monumentali, grandi monumenti, e chiaramente all'epoca ci si rivolgeva soprattutto all'Italia, in particolar modo a Carrara, dove c'erano anche scultori bravissimi, capaci di lavorare la pietra come nessun altro sapeva fare, e questo ha dato vita, in particolar modo a Barry, in questa città, ad un cimitero, un cimitero che per certi versi ironicamente si chiama il cimitero di Hope, che è un cimitero meraviglioso, un cimitero monumentale pieno di sculture, di opere veramente molto belle, scolpite in gran parte proprio dagli scultori italiani, e che molto spesso erano le sculture, i monumenti fatti in memoria di quegli scalpellini stessi che morivano di silicosi, che venivano sepolti nel cimitero, ed erano i loro stessi fratelli, i loro stessi figli a scolpirle per loro. E questo cimitero è veramente qualcosa di stupendo, anzi consiglio a tutti un giorno, se qualcuno capita di fare un viaggio negli Stati Uniti, di fare un salto in questo posto, perché è veramente un precipitato della memoria, e anche della memoria di noi italiani, che purtroppo abbiamo un po' dimenticato. Eh sì, non a caso molte delle lapidi riportano cognomi italiani, insomma. Senti, volevo chiederti anche, per chi ci ascolta, come sarà possibile, se sarà possibile vederlo al di là dei festival, questo documentario, se avrà qualche forma di distribuzione o c'è un calendario di proiezioni? Dunque, stiamo cercando di dargli una distribuzione in sala, questo in particolar modo in Francia e anche negli Stati Uniti. Per l'Italia è un po' più complicato, anche se qualche proiezione, qualche uscita in qualche sala c'è già stata, anche perché il film è stato in realtà coprodotto con Rai Cinema, quindi sarà comunque un film che vedremo sulla Rai prima o poi. Benissimo, io ti ringrazio, un abbraccio e ci sentiamo per le prossime novità. Grazie mille, a presto. Ciao caro, ciao. Ciao. Bene, questo Giovanni Don Francesco per il documentario The Stone River. Franco Zuliani di Officine Ubu, distributore del documentario Everyday Rebellion, l'arte di cambiare il mondo, in uscita in sala oggi, giovedì 11 settembre. Franco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Come ti dicevo prima, a questo documentario ho dedicato la copertina sulla pagina Visionari, sia del sito internet della radio ondarossa.info, sia di Facebook, e raffigura tre delle femen in un'azione davanti a un'ambasciata egiziana contro la Sharia. Grazie di questo, ci siamo grati, insomma, visto che i documentari hanno sempre un grande bisogno di sostegno. Certo. Franco, si parla anche di femen, ma più complessivamente di varie rivolte in giro per il mondo. Ci sono gli indignados spagnoli, c'è Occupy Wall Street, ci sono le primavere arabe, tutto contrassegnato dalla creatività delle proteste, giusto? Giusto, ci sono appunto, qui vengono anche mostrati vari metodi per protestare o per aggirare degli impedimenti riguardanti queste proteste. Vediamo che ad esempio in Iran lanciano dei palloncini con delle pinze che hanno del ghiaccio in mezzo, in modo che quando il ghiaccio in aria si scioglie, il palloncino si apre e rilascia dei volantini che sono stati realizzati ad hoc per la protesta. Oppure durante Occupy Wall Street erano proibiti i megafoni, allora i ragazzi parlavano in sequenza, ognuno ripeteva la stessa frase, ognuno accanto all'altro, per cui alla fine si amplificavano i dialoghi. Sì. Insomma, vediamo alcuni espedienti creativi molto interessanti. E si scopre anche che ci sono dei laboratori che si occupano proprio delle rivolte globali e del modo in cui vengono condotte. Sì, ad esempio i realizzatori di questo documentario, che sono i fratelli Riahi, che vivono a Vienna, sono degli esiliati iraniani, hanno realizzato il sito everydayrebellion.net, che raccoglie appunto esperienze, impressioni, consigli, insomma raccoglie di tutto riguardante queste ribellioni non violente. Quindi è anche un fenomeno cross mediale, non è solo un film. Oh, per quanto riguarda le Femen, a Roma c'è stata la conferenza stampa di presentazione lo scorso giorno, lunedì se non sbaglio, alla Casa del Cinema. Era presente una delle rappresentanti, la leader delle Femen in Shevchenko. Esatto, e anche questo è un fenomeno, a differenza spesso degli altri, piuttosto trasversale, nel senso che poi ha interessato anche varie altre capitali e regioni del mondo, e nel senso le Femen si sono un po' diffuse ovunque. Sì, e adesso tengono dei corsi per così diciamo istruire altre ragazze a fare le loro attività a Parigi, dove Inna Shevchenko vive in esilio. Quindi insomma sta diventando un fenomeno abbastanza ampio. Sì. Senti Franco, questo documentario come ha avuto origine, per quello che ne sai? Ma diciamo che i due fratelli Riahi sono figli di esiliati iraniani che sono dovuti scappare al tempo dello Shah, in quanto erano comunisti i genitori, e quindi sono stati costretti a espatriare all'estero e sono arrivati a Vienna, e qui si sono stabiliti, e quindi diciamo i due registi hanno vissuto in prima persona un esempio di un regime che andava combattuto, quindi hanno voluto fare questo documentario anche perché la loro esperienza personale gli ha fatto toccare con mano un regime, uno stato dove è giusto che ci sia una forte protesta. E infatti in Iran qualche anno fa c'è stata quella famosa rivoluzione pacifica che abbiamo visto tutti e che è stata uno dei primi esempi di come si può anche protestare senza mettere bombe o staccare teste, come sta avvenendo adesso con l'ISIS ad esempio. Senti Franco, considerato il fatto che si sono occupati di rivolte in più parti del mondo, volevo chiederti quanto ha richiesto la realizzazione in termini anche temporali. È 4 anni circa. 4 anni di lavoro. È iniziato nel 2009 questo documentario ed è finito l'autunno dell'anno scorso. Da oggi nelle sale che tipo di distribuzione? Intanto volevo chiederti come lo avete incontrato e poi che modalità di distribuzione adotterete. Adotteremo una distribuzione per ora di una sola sala per ogni città capozona, poiché purtroppo in Italia i documentari hanno una vita molto difficile e quindi non incontrano con facilità un grande pubblico. Di conseguenza di più non siamo riusciti a fare per questo primo weekend. Confidiamo che il documentario piaccia, che riesca a raccogliere un certo pubblico, in modo di magari settimana prossima poter allargare l'uscita. Voi come l'avevate incontrato? Ma il nostro buyer Fabrizio Grosoli, che è uno forse il massimo esperto che c'è in Italia di documentari, poiché era responsabile dei documentari ai tempi di Telepiù, è stato direttore del Festival di Bell'Aria, era responsabile per quanto riguarda i documentari in Fandango fino a 3-4 anni fa, e quindi insomma è un buyer che ha veramente una grande esperienza sul tema dei documentari, quindi ce l'aveva segnalato lui e dopo una valutazione interna è stato immediatamente deciso di acquisirlo, perché è anche molto in linea con la nostra linea editoriale. Ecco, proprio per l'appunto, diciamo anche due parole sull'esperienza Officine Ubu. Quindi riguardo in generale ai nostri film, alle nostre uscite? Sì, poi anche la scelta insomma rivolta al documentario che sta prendendo piede, però insomma è sempre complicato da far vedere. Sì, noi siamo molto amanti del documentario e fortunatamente l'anno scorso avevamo anche acquisito, ancora prima della selezione di Venezia, Sacro Gra, e per noi è stata un'enorme soddisfazione, sì, vederlo vincere il Leone d'Oro e quindi avere poi quel grande successo che ha anche un po' rilanciato i documentari in Italia, perché appunto siamo convinti che insomma questa vittoria di Sacro Graal abbia riportato il documentario, gli abbia dato un po' di visibilità maggiore rispetto a quanto avesse prima. E quindi quest'anno abbiamo preso altri documentari, ad esempio ne abbiamo un altro che si intitola Smoking, che sarà al Festival di Torino e che è sull'unica fabbrica italiana privata di sigarette che riesce a combattere contro le major americane del tabacco. È un'altra cosa molto interessante, molto particolare. A noi piacciono sempre le cose un po' originali e particolari. Senti, è proprio per Everyday Rebellion, per avere anche una mappatura delle sale di proiezione, e come riferimento va bene il sito internet di Officine Ubu? Sì, e anche la pagina Facebook di Officine Ubu. Nella pagina Facebook di Officine Ubu ci sono indicate le sale. Ad ogni uscita di un nostro film basta guardare la nostra pagina di Facebook dal giorno prima dell'uscita in genere e si trovano tutte le sale dove è un nostro film. E allora ricordiamolo, Everyday Rebellion, l'arte di cambiare il mondo, in uscita oggi giovedì 11 settembre. E Franco, un abbraccio e a risentirci presto. Va bene, grazie a tutti e buon cinema, arrivederci. Ciao, grazie. Franco Zuliani di Officine Ubu, distributore del documentario Everyday Rebellion. Oh, in tutto questo siamo in collegamento, stiamo mettendoci in collegamento con Davide Ferrario. Il suo documentario La zuppa del demonio è in uscita oggi giovedì 11 settembre, lo abbiamo sentito anche più volte quest'anno. Davide, hai raggiunto una posizione? Possiamo parlare. Stavo dicendo che quest'anno ci siamo sentiti in più occasioni, soprattutto legate alla non solo alle uscite in sala dei tuoi lavori, ma anche alla proiezione che abbiamo fatto al Teatro Valle Occupato. Anzi, in proposito volevo anche chiederti qualche tua considerazione rispetto a questo sgombero forzato che c'è stato ad agosto legato al Valle. No, ti dirò di più, una cosa molto, molto legata anche alla zuppa del demonio è che da tempo eravamo d'accordo con il Teatro Valle per presentare il film anche sì, lì, cioè di avere un'uscita normale contemporaneamente al Teatro Valle, perché la zuppa del demonio offriva la possibilità di fare dei ragionamenti non solo sul suo tema ma anche sulla natura del documentario, e con Fulvio Molena e gli altri del gruppo effettivamente questa è stata una cosa che era stata preventivata per settembre-ottobre, e poi anch'io sono stato colto abbastanza di sorpresa dallo sgombero, dalla chiusura, e adesso non ho più sentito neanche nessuno con la scusa di agosto. Devo dire, ci sono rimasto male, perché era effettivamente, come dire, non per negare l'importanza dell'uscita commerciale, ma era assolutamente un'attività complementare che avrei fatto molto volentieri. Sì, tra l'altro c'era un rapporto che si era instaurato, per cui vabbè. No, ma infatti non so, anche per rapporti personali, ma insomma, cioè, la cultura passa attraverso, come dire, forme che devono essere diverse, e trovo appunto che tutti i documentari siano un linguaggio meraviglioso per riuscire ad arrivare a parlare a tutti, anche fuori dalle sale cinematografiche sì, strettamente commerciali. Oh, per chi ci ascolta, Davide, La zuppa del demonio, raccontiamolo. Sì, allora, se dico che è un documentario fatto tutti con spezzoni di documentari industriali dal 1910 al 1970, scusate un attimo, sentite, sono su un treno, quindi c'è anche passare questo annuncio. Sto scendendo peraltro a Napoli a presentare il film, infatti, stasera. Sì. Dicevo, se dico che è fatto con tutti gli spezzoni di documentari industriali, magari uno si spaventa e pensa a un'operazione un po', come si dice, di storicendo. In realtà il film è straordinariamente, non lo dovrei dire io, ma lo dico io proprio perché facendolo mi sono sentito coinvolto, è straordinariamente emotivo, perché questi materiali che arrivano tutti dall'archivio Cinema Impresa di Ivrea sono straordinari dal punto di vista cinematografico, sono stati girati molto spesso da potentissimi registi, ma sono soprattutto una testimonianza in presa diretta di questi decenni in cui si è costruita tutta un'idea di progresso e di sviluppo, le cui conseguenze poi vediamo adesso. Sì, perché sì, fino agli anni 70 si è andato avanti con una corsa che sembrava inarrestabile verso più produzione, più tecnologia, più progresso, più tutto, e oggi 40 anni dopo guardiamo indietro e vediamo probabilmente le macerie di quel pensiero. Sì. Più di 60 anni di storia in immagini, tra l'altro corredate di parole e versi di importanti anche registi, ma soprattutto poeti sia italiani che internazionali, una grossa parte legata chiaramente al futurismo italiano ma anche russo. Comune denominatore, Davide, mi è sembrato un grosso entusiasmo legato ai macchinari ma anche alle grandi opere, e quasi delirante. Ma guarda, però devo fare veramente anche una forma di autocoscienza e autocritica, perché quel film lì, farlo, mi è servito per tornare indietro a un periodo della mia vita che spesso associo ad altri ricordi. Cioè, io sono del 56, sono cresciuto negli anni 70, il periodo appunto, insomma, degli anni della rivolta, ecco. Eppure uno poteva contestare tutto quello che era contestabile in quel periodo, ma l'idea che il progresso, la tecnologia ci avrebbero costituito un mondo migliore, quella era un'idea che condividevamo tutti, la condivideva la destra, la sinistra, i capitalisti, i comunisti, cioè quella che poi è diventata una coscienza ambientalista, o come dire, una critica dei limiti dello sviluppo, non ce l'aveva nessuno. Tutti, lo dice Giorgio Bocca molto bene nel film, in uno scritto del 2000, ripensando agli anni del boom, cioè, tutti siamo andati avanti a occhi chiusi verso questa corsa al progresso che si autospiegava. Infatti ti ho citato Marinetti prima, Marinetti all'inizio del film ha citato appunto, dice, il progresso ha ragione anche quando ha torto. Sì. E c'è un'altra frase di Majakovskij meravigliosa che dice, quando vedo l'unione, dopo aver visto l'elettricità, non mi sarei più potuto interessare alla natura così imperfetta. Ecco, allora che oggi che è così facile parlare di ambientalismo e di ecologia, non si può dimenticare invece le radici profonde, anche culturali, di quello che ha messo in moto le cose noi paghiamo il prezzo di una cosa che è stata messa in piedi allora. Sì. Davide, anche perché nei decenni passati probabilmente tutto questo era legato all'idea che il progresso e comunque le macchine avrebbero portato a una riduzione della fatica che dei problemi di mortalità legate alla figura degli operai soprattutto. Ma certamente c'era un'idea generale di che il progresso era buono a prescindere, poi ci si divideva anche in maniera molto aspra sulla giustizia sociale e sulla redistribuzione del reddito e della ricchezza. Sì. Ma sulla Luna ci volevano andare i russi e gli americani, e nessuno metteva nessuno contestava questa idea che bisognasse conquistare il mondo. Un'altra cosa che mi è venuta in mente facendo il film, mi ricordo certi temi che si facevano alle elementari, quindi negli anni 60, dove il comune denominatore era l'uomo che domina la natura. La natura che oggi ci sembra così da rispettare, da salvare, eccetera, era considerato un ostacolo per l'affermazione dell'umanità. Sì. E questo era un pensiero umanista che attraversava tutte le culture. Insomma, nel gruppo del demonio, spesso parlando, è un po' un film Frankenstein, nel senso che è fatto con dei pezzi di film morti che tornano a nuova vita in un corpo nuovo. È davvero come il mostro di Frankenstein, da prima ti fa orrore perché c'è dentro della roba che esiste adesso, appunto soprattutto nel ragionamento del rapporto tra l'industria e la natura, fa veramente accapponare la pelle, e contemporaneamente però, come il mostro di Frankenstein, alla fine ti fa tenerezza. Mm-hmm. Perché ci trovi dentro un'innocenza e soprattutto una fiducia nel mondo nelle meravigliose magnifiche sorte progressive che adesso si è completamente perso. Sì, sì, sì. Un'altra cosa che emerge chiaramente dalle immagini, che tra l'altro sono di una grande qualità, perché ci sono dei signori registi che hanno filmato quei periodi storici, fanno impressione per esempio gli ulivi secolari in Puglia, che vengono eliminati con le ruspe per far posto poi all'acciaieria a Taranto, certo, oppure le carcasse di auto che vengono disseminate sui fondali del mare. Insomma, se uno pensa all'impatto ambientale delle piccole catastrofi filmate con gioia quasi. No, proprio questo però è l'elemento che poi alla fine mi interessava, nel senso che è vero che è tutto rivendicato con orgoglio. Sì. Tutto questo, e si poteva fare della satira, dello humor nero su questo, facile, però credo la cosa più interessante è che invece proprio rivedere oggi quelle cose, e senza appunto un commento, senza, non ci sono teste parlanti o esperti che ti raccontano niente nel film, cioè una successione costruita dal montaggio di materiale originale, insomma tornare a provare a condividere quel sentimento, a capire come ci si sentiva, non solo cosa ci si pensava 50, 60, 70 anni fa, e farne conti rispetto all'oggi. È troppo facile condannare, insomma, non è, cioè, è stata un'operazione anche un po' troppo, che non porta da nessuna parte. Mettere in discussione, capire appunto le radici dei guai di oggi attraverso le immagini del passato, quello sì mi sembra invece più interessante, più utile. Sì, sì. Senti Davide, il progetto come nasce? Devo dire grazie a Sergio Toffetti, che è il direttore dell'archivio Cinema Impresa di Ivrea, dove sono confluite tutte, sono i fondi vari delle aziende, delle grandi aziende, dalla Fiat alla Preda alla Sando, che hanno documentato la loro attività in tutto il Novecento. C'è un archivio che raccoglie questi materiali, e lui per lungo tempo ha insistito che io andassi a vedere, diceva che ho ancora lo sguardo di un filmmaker, perché c'è una storia da raccontare. Quale storia fosse l'ho capito abbastanza in fretta quando finalmente ho trovato il tempo di andare, cioè, ce ne sono molte altre, ma a me subito mi ha affascinato questa idea di ripercorrere dall'inizio del Novecento fino alla crisi petrolifera degli anni 70, quando sono andato in crisi tutto quel pensiero di sviluppo senza limiti, un'idea positiva di progresso con tutte appunto le sue meravigliose utopie e anche i suoi tremendi disastri. Mm-hmm. E poi dopo, una volta trovata una linea di pensiero, si è trattato di ore e ore guardare il materiale e certe volte trovare delle cose disperate, perché il pezzo che tu ricordavi, che veramente non so come definirlo, è facente di queste mille carcasse buttate appena fuori dal Golfo di Varazze per fare le case ai pesci, con dentro però appunto le gomme, tutta la parte chimica delle macchine, le batterie, come un atto ecologico. Ecco, questo non era un film, era materiale girato dalla Fiat e contenuto in un girato che era stato fatto da qualche operatore, lasciato in una scatola di pellicola e trovato nelle periodiche catalogazioni che l'archivio fa. Mm-hmm. Per cui è stato anche un lavoro di scoperta e certe volte di identificazione di cose che, quando le vedi la prima volta, non riesci neanche a capire cosa sono o che storia raccontano. Sì. Oh, immagino che il lavoro di selezione, di prima di visione e poi di selezione, sia stato piuttosto impegnativo. Beh sì, se fai un film di montaggio, quello che risparmi in ripresa fa finire tutto sul tavolo della moviola, cioè sì. Guardare il materiale, di provare a costruire delle connessioni, delle piste narrative, per esempio noi abbiamo alla fine optato per una abbastanza semplice successione cronologica dall'inizio del secolo 70, ma prima abbiamo avuto anche pensieri diversi di raccontare per temi oppure per luoghi. Quindi provi delle piste narrative, un po' come fai anche col cinema di finzione, cioè sì. Ti mette delle scene prima e delle scene dopo per vedere cosa racconta meglio la storia, ma soprattutto per me, che credo che il montaggio è la vera natura del cinema più di qualsiasi altra cosa, si tratta di far saltare fuori un valore in più alle immagini, cioè di non forzare il significato di quello che c'è dentro, cioè rispettare l'idea che c'era in chi le ha fatte, ma al contempo mettere in una prospettiva che è quella mia, che è quella del film di adesso. Sì. Oh, Davide, immagino che, dato anche il tipo di film che esce oggi nelle sale, lo accompagnerai, perché sarà anche occasione magari di momenti di incontro e di dibattito. Io intanto devo dire che sono, parlavo di Frankenstein, film Frankenstein, è vero, come Frankenstein è un po' miracoloso che questo film abbia preso questa vita. Sì. Uno per come è nato, due perché l'abbiamo fatto senza grandi aspettative, cioè una bellissima idea, ma insomma ero anche, sei già stato anche soddisfatto che fosse un buon documentario da far vedere così a qualche festival. E invece non solo, Alberto Barbera, quando l'ho visto, l'ha voluto assolutamente all'inizio in selezione ufficiale, ma è stato preso in distribuzione, esce nel cinema, con una vita molto fortunata per un documentario di questo tipo, per cui sì, adesso sta fuori, sto andando, come sentite, su un treno per Napoli, domani torno a Torino e sabato sono a Roma al Barberini alle 20, mi sembra, 20:30, a presentarne e discuterne. Benissimo. Allora, ricordiamolo, da oggi nelle sale La zuppa del demonio. Davide, ci dai anche dei riferimenti internet, se per un calendario di proiezioni? Io credo che se andate sul sito di Microcinema, che è la nostra distribuzione, ci trovate tutto quanto, e ci sono le varie indicazioni, presenza mia in giro per, ecco, questi primi giorni ve li ho già raccontati, poi so che martedì c'è ancora Bergamo, mercoledì Ivrea, andiamo nella città di Olivetti, anche che è la città dell'archivio, per un doveroso omaggio, e poi ricomincio un tour più fuori dal nord, da giovedì in poi. Benissimo, un abbraccio e alla prossima, Davide. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Davide Ferrario, regista del film, del documentario La zuppa del demonio, in uscita in sala oggi giovedì 11 settembre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. In linea Gianluca Del Gobbo per parlarci della prima edizione del Live Cinema Festival qui a Roma dal 17 al 20 settembre. Gianluca, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Come ti dicevo stamattina, l'ho vista all'ultimo, la mail che era finita nello spam, che mi segnalava insomma questo festival, ho detto no, parliamone, mi sembra piuttosto interessante. Di cosa si tratta, Gianluca? Beh, è una rassegna di, diciamo, performance, di cinema realizzato dal vivo. Diciamo, il nostro background viene un po' dal VJing, che è stata un po' la prima forma, diciamo, popolare di poter fare video dal vivo. E negli anni abbiamo sviluppato una community internazionale e, diciamo, organizziamo da un po' di anni LPM, che è un meeting internazionale di videoartisti che si dedicano appunto al live video, e abbiamo avuto la possibilità, grazie anche a qualche soldo, diciamo, dell'estate romana, di poter portare a Roma una selezione, quindi diciamo un vero e proprio festival dove abbiamo voluto raccogliere quelle performance audio video che appunto vengono definite live cinema, perché per vari motivi, diciamo, un po' perché hanno una narrativa, un po' perché, diciamo, un progetto, sono progetti strutturati, e niente, quindi dal 17 al 20 ospiteremo 8 performance, due al giorno, dalle 9 alle 11, diciamo, sono performance che durano circa 40 minuti. I luoghi del festival? E il Teatro Quarticciolo. Sì. Si svolge tutto lì, che sta appunto al Quarticciolo, via Ostuniotto, e soprattutto, diciamo, cosa importante, l'ingresso è gratuito. Diciamo, abbiamo avuto questa possibilità di appunto avere qualche piccolo aiuto dal Comune di Roma, e ci sembrava giusto pure lasciare, insomma, l'ingresso gratuito, un po' come era una volta l'estate romana. Senti, quanti sono gli artisti che avete coinvolto in questa 4 giorni? Sono 8, in realtà sono 8 gruppi, gli artisti sono di più, perché di solito c'è, diciamo, di solito sono dei duo che si dividono un po' l'esecuzione del lavoro, chi, diciamo, una persona cura la parte video e l'altra la parte audio, quindi sono 8 performance, sono 13 artisti da Italia, Polonia, Inghilterra, Germania, insomma una buona, per essere una prima edizione, sicuramente una buona anteprima, diciamo, di quello che è questa, chiamiamola, nuova disciplina. Sì, un po' da tutto il mondo. Volevo chiederti se facevano già parte questi artisti della rete che avete costituito nel tempo, o se ve li hanno anche segnalati, o avete visto i loro lavori e li avete contattati voi. Allora, ci sono delle persone nuove rispetto alla nostra esperienza con LPM, però sicuramente abbiamo voluto dare spazio a chi ha seguito il meeting, che abbiamo avuto la possibilità di vedere, seguire anche nel proprio progetto. E ci sono, chiaramente, come ci capita spesso, degli ibridi, quindi per esempio il gruppo che viene dalla Bielorussia, in realtà uno dei due aveva già partecipato sia all'edizione che avevamo fatto a Minsk in Bielorussia, sia poi lo stesso anno, di conseguenza, diciamo, abbiamo ospitato qui alcuni artisti che venivano da Minsk. In questo caso ci porta invece un lavoro nuovo fatto con un altro compagno, diciamo, di esecuzione, e quindi, diciamo, poi c'è sempre il solito ibrido un po' che ci caratterizza. Mm-hmm. Un'altra cosa che volevo chiederti anche soprattutto per chi è all'ascolto, materialmente come funziona un live cinema? In questo caso, appunto, essendo una prima edizione, abbiamo voluto fare delle cose semplici e speriamo, insomma, fatte bene. Comunque quello era l'obiettivo, quindi il setup, diciamo, l'allestimento è molto simile, appunto, a un allestimento cinematografico. Sì. Il teatro ha molte caratteristiche in comune. La cosa per cui si differenzia è che nel teatro c'è il palco, che invece per noi è importante, perché comunque, appunto, le esecuzioni vengono fatte dal vivo, sia per la parte video che per la parte audio. Quindi teatro, schermo, fondo palco, artisti sul palco. E il primo giorno c'è un allestimento un po' particolare dei Light Surgeons dall'Inghilterra, perché hanno anche un secondo schermo sul fronte del palco, quindi un allestimento un po' più particolare, con uno schermo trasparente con loro e con i performer in mezzo. Mm-hmm. Loro sono un po' i precursori di questa disciplina, quindi sicuramente sono, chiamiamoli, gli headliner del nostro programma. E per il programma ci dai in chiusura un sito internet di riferimento? Sì, livecinemafestival.com, il sito internet. Come dicevo, l'ingresso è gratuito, ma il teatro ha 150 posti, anche se sono 4 giorni, e c'è un form per riservarsi un posto al sicuro, appunto perché l'ingresso è gratuito, e quindi diciamo ci sembra una buona opportunità anche per chi magari vuole vedere questa, diciamo, derivazione del fratello maggiore, insomma. Bene. Nonno oramai. Sì. Un abbraccio e un in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi e un saluto a tutti. A presto. A presto, grazie mille. Ciao. Gianluca Del Gobbo per parlarci di questa prima edizione del Live Cinema Festival a Roma, Teatro del Quarticciolo, dal 17 al 20 settembre prossimi. Siamo in collegamento per parlare del film Arance e Martello, uscito in sala lo scorso 5 settembre, con il regista Diego Bianchi. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ecco. Eccoci, buongiorno. Aspetta un attimo che esco da questo posto, che sento poco. Eccomi, ci sono. Diego, sarò sincero, c'era stata la proiezione stampa ad agosto, io non c'ero, ancora devo vederlo. Vabbè, c'è però, sempre tempo, però, credo, spero. Mi incuriosiva molto, ho visto i trailer, insomma, raccontalo un po' a chi ci ascolta. Arancia e Martello, cos'è? Allora, Arancia e Martello è una storia che si svolge a Roma, quartiere San Giovanni, sotto casa mia praticamente, nella calda estate del 2011, ambientata nell'estate del 2011. I più attenti di voi ricorderanno che c'era ancora Berlusconi presidente del Consiglio, Alemanno sindaco di Roma, la Polverini presidente della regione, insomma non ci siamo fatti mancare nulla in quel periodo. Non c'era scampo. Beh, insomma, abbiamo fatto le cose in maniera proprio decisa, ecco, insomma. E questa storia racconta le vicende di un mercato rionale che esiste davvero, che sta a via Orvieto, per chi conosce più o meno la zona. Comunque è un mercato come ce ne sono tanti a Roma, come ce ne sono comunque sempre meno, perché parecchi di questi sono stati o chiusi o riqualificati o spostati o riammodernati, però insomma diciamo che l'incertezza del futuro fa sì che spesso, insomma, chi ci lavora tenga più alle poche certezze del presente. E quindi, siccome un giorno, uscendo di casa, ho sentito un signore che diceva: qui se chiude il mercato scoppia la rivoluzione, ho voluto pensare all'eventualità che ciò si realizzasse davvero, e nella fissione questa cosa si può fare, il tutto facendo interagire con questo mercato una sezione dell'ex PC, ora PD, che sta davvero lì a Via La Spezia tuttora, che è una sezione nella quale io in giovane età facevo il giovane comunista, insomma, ho militato, ci sono anche legato affettivamente, e che nella mattinata va a fare una cosa che effettivamente il PD fece nel 2011, cioè raccogliere 10 milioni di firme per far dimettere Berlusconi. Non so se ve la ricordate questa cosa. E Berlusconi si dimise non per questo, non per le firme, ma per altro. E poi a un certo punto il mercato, quando arriva questa notizia della chiusura, cerca un appoggio politico, e quello più vicino, più a portata di mano, è quello di questa sezione, e chiede a loro di intervenire e fare qualcosa per loro. Il tutto darà vita, insomma, al svolgersi della storia, tutto in una via, tutto in una giornata, il tutto con riferimenti espliciti, insomma, con un omaggio, tributo a fare la cosa giusta di Spike Lee, non per chi voglia fare Spike Lee, ma perché insomma è un film che devastò la mia adolescenza e mi piaceva e mi piaceva riportare un po' di Brooklyn a San Giovanni, insomma, i temi comunque, diciamo, la necessità di confronto fra gli opposti mi sembra comunque ancora molto attuale. Sì. Ecco, a proposito di Brooklyn a San Giovanni, come ti sei mosso rispetto agli attori che lo interpretano, alla sceneggiatura che hai scritto e ai luoghi che hai filmato? Allora, i luoghi è la cosa più semplice, il set sta lì, chi volesse andare a vederlo lo trova tutti i giorni, cioè il mercato è lì, la sezione è lì, e è lì anche questa grande muraglia gialla dei lavori della Metro C che separa plasticamente questi due ambienti, quindi diciamo che la separazione metaforica spesso evocata tra politica e paese reale lì non è metaforica, è proprio oggettiva, insomma, è tangibile, come dire, ed è anche assurdo, diciamo, era un set servito su un piatto d'argento e non approfittarne sarebbe stato un peccato. Ho scritto questa sceneggiatura, che è la mia prima lunga sceneggiatura, io ne ho scritte poi tante piccole brevi quando facevo Tolleranza Zero, insomma, per tante cose che ho fatto, e esercitarmi e sfidarmi nella prova appunto lunga mi ha sempre così un po' stuzzicato, ovviamente, qualora avessi avuto una storia che mi piacesse raccontare. Questo è stato il caso. Poi, ripeto, tutto si svolge sotto le finestre di casa mia, mi rendeva tutto più semplice. Ovviamente, non avendo mai scritto una sceneggiatura, ho scritto una roba mostruosa, lunghissima, che a me piaceva moltissimo, sia chiaro, cioè, e mi è piaciuto talmente tanto scrivere che mi hanno detto: ecco, bravo, però questo non è un film, puoi portarlo a Locarno, dove vincono i film di 5 ore e mezza, che loro stanno veramente avanti a Locarno. Però insomma, comunque, diciamo che poi ho lavorato di sottrazione e abbiamo fatto questa cosa. Abbiamo fatto questo film, poi lì, insomma, diciamo che fare il regista è stata un'altra avventura, frutto di grande incoscienza, ma insomma anche molto divertente, grazie ovviamente all'appoggio di gente che lavora sul set da più tempo di me, anzi che io non ci ho mai lavorato, ecco, che lo fa veramente di lavoro, che però è stata contenta di misurarsi con uno un po' strano come me, che insomma abbiamo cercato di mischiare il linguaggio della macchina da presa classico, insomma quello del cinema, per capirci, con le mie riprese con la telecamerina, quello che faccio insomma di solito a gazebo, in TV, sul web, insomma. Ecco, proprio a questo proposito, lo spirito che hai scelto per la realizzazione di questo film, come viene fuori? Nel senso, ce l'avevi già in testa di fare una cosa con questo tipo di umorismo? E cosa c'è anche dello spirito romanesco che immagino animi la pellicola? Ma lo spirito non ha la presunzione di rappresentare lo spirito romanesco, semplicemente è il mio, cioè nel senso è quello che ho sempre utilizzato, è quello che mi viene naturale usare quando faccio, diciamo, quando lavoro, no? Quindi l'approccio, diciamo, leggero, se si può usare questo aggettivo, rispetto a problematiche pesanti, e quindi cercare di tirare fuori due risate per far passare una notizia, un contenuto, è quello che mi è sempre venuto più naturale fare, no? Che si trattasse di andare a Lampedusa piuttosto che all'Aquila, piuttosto che a Mirafiori, a Pomigliano, ho sempre fatto così, e penso che insomma sia anche un modo abbastanza utile, al di là del fatto che lo faccia io o qualcun altro, per provare a fare informazione, questo al di là del film. E nel film ho usato la stessa cifra, perché ripeto, è quello che mi diverte anche di più fare, insomma mi viene più facile fare forse. Ecco, rispetto alla città, ai quartieri, le micro comunità che li animano, come lo vedi la vita di una piccola porzione di città come quella di un quartiere? Beh, insomma, Roma, ogni piccola porzione di città di Roma in realtà è una cittadina altrove, insomma, sì, no? Sì, quindi sì. Vedi, la Tuscolana ha la popolazione di tutta Firenze, credo, per capirci, quindi al tempo stesso sono dei grandi paesoni. Io lì dove abito io, San Giovanni, il mercato, non dico che c'è, cioè, in quel quadrilatero di vie, non dico che ci si conosce tutti, ma quasi, al tempo stesso, pur nel conoscersi tutti, non so quanto ci si parli, no? Per cui si rischia un po' ci sono situazioni di grande calore, grande, ecco, tipo quella del mercato, al tempo stesso poi nei condomini forse non c'è più, no? Si rischia di perdere la dimensione così del confronto, quando senti parlare i nonni, una volta qua c'erano le porte aperte, si andava di casa in casa, ecco, quello non è più così, però insomma i quartieri poi a Roma sono molto, hanno una loro forte identità, al di là di come, però cambiano, ecco, cambiano molto, non è un caso che questo mercato, alcuni dei protagonisti di questo mercato sono stranieri, per esempio, sì, sì. Cosa che non era così 10-20 anni fa, ecco. Adesso metà del mercato è gestito da bengalesi, pakistani, e quindi nel momento in cui andavo a rappresentare questa cosa ho cercato di essere il più fedele possibile. Senti Diego, ho risposto alla domanda. Sì, sì, sì. No, insieme all'avventura registica volevo chiederti anche com'è stata quella produttiva e distributiva. Ecco, questa, diciamo, io forse non so se sono più indicato a rispondere, diciamo che lavorando con la Fandango per nella televisione, per Gazebo, ancora prima per Parla con me, insomma, diciamo che è un po' ormai che lavoro con loro, è venuto naturale nel momento in cui avevo un soggetto e proporlo a loro, ecco, sì, diciamo, continuare, sì, a lavorare con loro, con i quali insomma lavoro bene, con armonia e divertimento, quindi era una fortuna al tempo stesso, però insomma se l'hanno fatto perché credevano avesse senso, insomma. E circa la distribuzione, qua veramente non sono molto, il film è stato prodotto anche da Rai Cinema, distribuito da Fandango in una, adesso mi sembra, 50ina di sale, ora non te lo so dire con esattezza, più o meno. E così, però questa, sì, ripeto, forse, sì, è il tema che io conosco meno, ecco, diciamo che ho fatto molte cose, ho fatto non dico tutto, insomma, veramente mi trovi parecchie volte nei titoli di testa e di coda, ma la distribuzione no, ecco. Senti Diego, il titolo Arancia e Martello è nato subito, ha visto tutti d'accordo, come è andata? che non ti piace, tu volevi un'altra cosa. No, figurati, però falce e merluzzo, che volevi? No, diciamo che mi è venuto così, dovevo trovare una sintesi che rappresentasse questi due ambienti della sezione, che adesso poi si chiamano circoli, ma io uso un linguaggio un po' antico, comunque sia, diciamo, della sezione del mercato, e che avesse un'assonanza col celebre simbolo, insomma, quindi le arance, così, che poi arance sono pure fuori stagione d'estate, però insomma ormai si trova tutto a tutte le stagioni, quindi arance e martello è rimasto. Poi appunto, poi quando avevo momenti in cui non ero sicurissimo, tutti erano invece convintissimi, quindi poi non è stato più molto discusso. Okay. Ormai è tardi. Ormai è tardi. Senti, com'è andata questa prima settimana? La prima settimana bisogna farla partire da Venezia, insomma, perché il film è stato selezionato per la settimana della critica di Venezia, e questa cosa ovviamente a noi ci ha riempito di orgoglio e soddisfazione, insomma, e quindi siamo andati lì a giocare, a fare i registi e gli attori veri, insomma, a passeggiare con William Defoe vicino era comunque una cosa che non è proprio normalissimo, ecco. E l'accoglienza è stata più che buona, insomma, applausi, risate. È andata molto bene a Venezia. Adesso sta nelle sale, ci sono tutte le logiche di botteghino che appunto sto cercando di capire, e siamo da 5 giorni nelle sale, va molto bene a Roma, diciamo che si combatte fuori Roma, ma questo è normale. Io tra l'altro adesso sto facendo una specie di tour, in questo momento sono a Padova, ieri ero a Firenze, a Pisa, l'altro ieri a Ancona. Dove vado, i cinema insomma sono pieni, anche devo dire con mia sorpresa, la cosa mi dà molta soddisfazione. Poi quanto sia lungo il ciclo di vita di un film, da spettatore ho sempre pensato che fosse lungo tipo una decina d'anni almeno, no? per capire quello che un film significa o può lasciare. Quindi insomma sono tranquillo. Bene, allora ricordiamolo, ancora nelle sale dal 5 settembre, Arance e Martello, Diego Bianchi. Un abbraccio e a risentirci presto. Resta un attimo in linea. Grazie, Diego. A voi. E ritroviamo Luchi Massa, direttrice dell'ottava edizione di Some Prefer Cake, festival internazionale di cinema lesbico a Bologna dal 17 al 21 settembre. Luchi, ben ritrovata. Ben ritrovato Federico, ciao, e ben ritrovati tutti gli radiospettatori. Allora, ottava edizione, dici un esatto. po'. Sta crescendo, dai. Dai, quest'anno abbiamo deciso di dedicare il festival a Audre Lorde, perché era tanto tanto tempo che volevamo le sue opere in italiano, e quest'anno ce l'abbiamo fatta. Ci sono due libri importantissimi che sono stati tradotti in italiano. Uno è Zami, così riscrive il mio nome, una biomitografia a cura di Liana Borghi con la traduzione di Grazia Di Cano, e l'altro è Sorella Outsider, gli scritti politici di Audre Lorde, per la traduzione di Margherita Giacobino e Marta Ieniello Guida. Ed entrambe queste pubblicazioni verranno presentate all'interno del festival. Okay. Poi, come ben sai, da un po' di anni abbiamo anche scelto di avere delle testimonial lesbiche che hanno deciso di vivere il proprio lesbismo alla luce del sole, e quest'anno, dopo Zanele Muoli, fotografa, e Aurélie Le Monceau, attrice, quest'anno abbiamo Ruby Rose, che è una VJ MTV Australia, DJ, modella, conduttrice TV, attrice, ora anche regista. Lei si è dichiarata lesbica fino all'età di 12 anni, quindi un inno alla visibilità. quindi, come dire, preferiamo essere visibili anche perché siamo favolose e splendide e non è il caso di stare nell'armadio. Quindi invito tutte le signore e le ragazze di venire fuori, perché la visibilità è da sempre lo strumento per più efficace per decostruire modelli e stereotipi, questo lo sappiamo, e per la comunità è una priorità molto importante per la lotta LGBT. Senti, a proposito di testimonial, mi veniva in mente una cosa. Ho dedicato la pagina di questa puntata alle Femen. Volevo sapere com'è il pensiero, il tuo pensiero, che organizzi un festival lesbico da diverso tempo a Bologna, rispetto alla politica e anche all'immaginario Femen. Beh, guarda, io purtroppo non mi sono persa il documentario che c'è stato, che hanno fatto su di loro, purtroppo non l'ho visto. Le trovo un po' stereotipate, cioè sono tutte belle, sono tutte molto così, hanno questa caratteristica di essere tutte, come dire, belle. C'è stato un dibattito su questa cosa, sì. Alcune dicono che sono manovrate, eccetera. Comunque fanno delle cose anche importanti. È chiaro che io preferisco le guerriglie, quelle che si mettono la parrucca di scimmia e vanno nei musei e ne combinano di tutti i colori. Preferisco loro. Sì. Senti, tornando al festival, quante opere presenterete in questa edizione? Allora, quest'anno abbiamo 46 film, di cui 23 prime italiane, 10 lungometraggi, 15 documenti doc e tante biopic. Quindi una bella carrellata di cinema da tutto il mondo. Sì. Oh, per quanto riguarda i luoghi del festival? Allora, sempre il Cinema Nosadella. Quest'anno fra l'altro facciamo anche una saletta sempre all'interno del, oltre alla sala grande di 500 posti, faremo anche una saletta dedicata alla Arzner, che è una delle più grandi montatrici degli anni 40-50. E poi abbiamo il vivaio Senape, vivaio urbano, dove avremo due mostre, e questi sono i luoghi del festival. E invece rispetto alle tematiche, ce ne sono alcune più ricorrenti e più forti? Beh, insomma, sicuramente le biopic sono davvero numerose e significative, creano un mosaico interessantissimo rispetto a ritratti di lesbiche e donne straordinarie che hanno segnato il pensiero e la cultura degli ultimi decenni. Non so, farò tipo Violette Leduc, no? Per esempio, che è la scrittrice francese amica di Simone de Beauvoir. Poi Alice Walker, per esempio, la scrittrice afroamericana che ha scritto Il colore viola, Gloria Alzaldúa, che è una teorica cicana. Insomma, la coreografa statunitense Elizabeth Streb, e poi c'è la scrittrice finlandese di libri per l'infanzia Tove Jansson. insomma, tante figure interessanti, tante storie di donne veramente coraggiose e forti. Bene. È previsto anche l'intervento di autrici dei lavori che presentate? Sì, intanto abbiamo il documentari, abbiamo Violette Leduc, sì. Abbiamo il documentario Violette Leduc, Le Chasse et l'Amour, e avremo appunto la regista Esther Offenberg, e parleremo appunto di Violette Leduc, della sua affronta i tabù degli anni 50 senza alcuna ipocrisia, l'aborto, l'omosessualità, il fatto di essere una bastarda, come si definiva lei, e quindi insomma ci sono tanti altri ospiti, per esempio ci sono altri documentari molto interessanti, per esempio Rebel Menopausa di Adele Tulli, una regista che è già stata nostra ospite dell'anno scorso, e quest'anno verrà Thérèse Clerc, 85 anni. Lei ha creato The Baba Yaga House, una co-house per donne oltre i 65 anni, e nella Banlieue di Parigi, e quindi si parlerà di questa casa importantissima, ma soprattutto di lei che insomma parla della sua vecchiaia e del suo femminismo importantissimo. Sì. Oh, per quanto riguarda la programmazione, ci dai riferimenti internet, Luchi? Sì, allora, intanto il nostro sito che è sunpreferencecakefestival.com. Le proiezioni sono dal mercoledì 17 fino alla domenica 21 settembre, e volevo dire che apriamo il festival con la regina Maria Antonietta, che è un film di una grossa casa di produzione, è un film d'apertura della 62esima Berlinale, e questo dramma al contempo storico e intimo ci restituisce una regina finalmente un po' più lesbica del solito. Bellissima questa. Non è male, insomma, è tutto. e poi voglio anche un altro assolutamente importantissimo, e poi non ne dico altri che saranno una sorpresa. Flores Raras, che è una storia vera tra la Elizabeth Bishop, appunto la poeta, e che lascia New York per andare in Brasile, e una cara amica l'accoglie e incontra Lota de Marcete Soares, l'architetta visionaria, e doveva stare 5 giorni e invece rimane 12 anni accanto a questa stupenda donna, Miranda Otto. E loro sono due figure di donne che hanno fatto la storia della letteratura e dell'architettura del XX secolo. Benissimo. Insomma, e poi basta, direi, perché devono venire a vedere il festival. Certo, insomma. Non ne parliamo troppo, insomma. Non ne parliamo troppo, diciamo. Chiediamo magari con il motto del festival, che è celebriamo la ricchezza del cinema lesbico. Oh. Quindi via. E via. Dai. Luchi, io ti abbraccio, ci si vede a Bologna, ricordiamo le giornate e i luoghi, lo fai tu? Sì, allora, mercoledì dalle 18 fino a mezzanotte, e poi gli altri giorni sono il giovedì 18, il cinema apre alle 16 e fino a mezzanotte. E poi venerdì dalle 14 fino a mezzanotte, e poi sabato e domenica dal mezzogiorno fino a mezzanotte. Ricordiamo che la sera c'è sempre il DJ set e poi il party, che ci sta sempre bene. T'abbraccio e a presto, ciao Luchi. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Luchi Massa per l'ottava edizione di Sun Prefer Cake, il Festival Internazionale di Cinema Lesbico a Bologna dal 17 al 21 settembre. Bene, parliamo ora di un altro dei film in uscita quest'oggi, The Giver, il mondo di Jonas. Ne parliamo con Roberto Proia, che cura la distribuzione. Roberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, grazie a tutti. Allora, un film che mi ha molto intrigato, si parla di distopia e di un mondo futuro in cui c'è un benessere però narcotizzato. Allora, raccontiamolo per sommi capi a chi ci ascolta, Roberto. Sì, in buona sostanza si parla di un futuro futuribile in cui le emozioni hanno causato più di un problema, quindi guerre, insomma conflitti, eccetera. Quindi si decide a un certo punto, tramite una specie di medicina che si prende ogni mattina, di azzerare le emozioni. Quindi questa cosa funziona da quel punto di vista, perché tolte le emozioni, tolto qualsiasi tipo di coinvolgimento, tutto diventa asettico, ma sicuramente non conflittuale. Le persone che vivono in questa comunità ideale, idilliaca, non sanno che cosa vuol dire provare emozioni, quindi non ne sentono il bisogno. Ma uno di loro sarà diverso, che questo ragazzo di 16 anni, che viene scelto dai grandi saggi, tra cui appunto Meryl Streep, poi praticamente la sovrana di questo mondo, è lei che tiene l'ordine così com'è, viene scelto per essere quello che raccoglierà le memorie del passato e che dovrebbe poi guidare i saggi nelle loro decisioni per far sì che lui accolga le memorie del passato su ciò che era il mondo. Lui comincerà a provare delle emozioni, questa cosa qui gli piacerà molto, fino appunto, adesso non svelo il finale, certo, insomma, a sovvertire un po' le regole. Oh, un mondo senza emozioni e sentimenti, senza memoria, perché non c'è il ricordo del passato. Però dove comunque la morte è presente, nel senso le persone vengono fatte sparire oppure vengono uccise con iniezioni letali tranquillamente, però insomma semplicemente viene tolta dalla vista la morte, giusto? Anche la morte è come chiudere un file, sì, né più né meno, quindi con la stessa freddezza con cui si chiude un file, con lo stesso zero coinvolgimento, in questo caso si provoca la morte, perché comunque le persone che lo fanno sono convinte che così sia lo stato delle cose, cioè non provare emozioni comporta anche questo. Sì, infatti sì. È abbastanza agghiacciante appunto questa società che in realtà appunto ha debellato guerre, però allo stesso tempo ha debellato qualsiasi cosa. Insomma, il tema ovviamente è quello in cui un sentire è meglio di non sentire, perché se da un lato senti del dolore, se te lo togli poi non sentirai più neanche il piacere. Oh, il film è stato tratto da un libro, c'è tutto un filone della cinematografia attuale negli Stati Uniti che cura, insomma, attenta alle distopie e molto, molto giovanile anche. Qui c'è una grossa firma, Philip Noyce, anche il cast, ci sono Jeff Bridges e Meryl Streep, come ricordavi, e ciò nonostante in America non ha avuto la risonanza che hanno avuto per esempio altre opere più rivolte ai giovani, sempre in un mondo ambientato in un mondo futuribile. Sì, diciamo la differenza con gli altri prodotti è che comunque, come dicevi tu, ci sono due attori del calibro di Meryl Streep e Jeff Bridges che accompagnano, insomma, le giovani leve. Questa cosa qui non è da trascurare, perché ad esempio in America è partito in maniera un po' sotto le aspettative, dopodiché settimana dopo settimana è sceso davvero poco, e infatti siamo intorno ai 40 milioni adesso, il film è costato 20, quindi insomma, che non è sicuramente, non rende assolutamente un blockbuster, però è un film che sta giovando moltissimo del passaparola. Sì. Rispetto per esempio adesso il quarto Weekend è sceso del 20% rispetto al terzo, che era sceso del 15% rispetto al secondo, eccetera eccetera, quindi questo è un segnale sicuramente positivo, e comunque il film c'è, che è un bellissimo film, perché diciamo è sia un thriller, quindi va sul film di genere, ma è anche chiaramente un film con una sostanza, con un suo messaggio ben preciso. Le interpretazioni, vabbè, sono veramente strepitose, c'è una specie di confronto alla fine tra Jeff Bridges e Meryl Streep che vale da solo il prezzo del biglietto, quindi comunque sicuramente un intrattenimento ampio, non necessariamente superficiale. Sì. Senti Roberto, come avete scelto la distribuzione di questo lavoro? Noi solitamente usciamo day and date con gli Stati Uniti, loro essendo usciti il 15 di agosto, per noi era improponibile, perché il 15 di agosto è una stagione abbastanza, è un momento abbastanza morto. Noi abbiamo fatto in modo di andare a colpire entrambi i target, quello giovane e quello un po' più adulto, perché per quello giovane avevamo appunto i protagonisti che avranno 17-18 anni, e quindi siamo andati a parlare a loro attraverso i vari canali tipici, il web, MTV eccetera. Dopodiché abbiamo fatto degli spot invece in cui si enfatizzava la presenza di Meryl Streep e Jeff Bridges per quelle trasmissioni un po' più ampie, dove ci fossero anche gli adulti, tipo Squadra Antimafia, Cesaroni piuttosto che... quindi siamo andati a cercare di acchiappare entrambi i target. Adesso questo weekend ci dirà se siamo stati bravi. Senti, tornando al libro di origine, per quello che ne sai tu, come è stato reso in immagini? Ci sono stati dei sostanziali modifiche? Qualche modifica c'è stata ovviamente, però diciamo di base no, non è cambiato moltissimo. Noi abbiamo fatto in modo nell'adattamento cinematografico, dato che si usano dei termini futuristici, abbiamo cercato di usare gli stessi termini che si utilizzavano nel libro. Uno stesso termine in inglese può essere tradotto in due o tre modi diversi dipendentemente da chi lo traduce, quindi per essere pedisse qui al libro che è uscito di nuovo ristampato in questo periodo, abbiamo seguito anche un po' le pagine del libro per essere più fedele possibile per i fan del libro, insomma. Bene, da oggi nelle sale quante copie, Roberto? 260. Beh, insomma, una signora uscita. È una bella uscita. Sì, è una bella uscita. Sì, sì. Bene, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Grazie mille, buon lavoro. Ciao. Roberto Proia sulla distribuzione del film The Giver, il mondo di Jonas, in uscita in sala oggi giovedì 11 settembre. Bene, in collegamento con Re Ammazzone, perché parliamo sempre di film in uscita, ma un film che è uscito lo scorso giovedì, Bellusconi, una storia siciliana, l'ho visto, mi è piaciuto, mi ha anche spiazzato, ho detto vabbè, ne voglio parlare, e quindi ne parliamo con te Rean, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Pronto? Portatori. Ecco. Grazie, un saluto a te e agli ascoltatori. Okay. Sono in viaggio e spero che la linea si prenda, che diluvia. Allora, per chi ci ascolta, come lo descriveresti in breve questo Berlusconi? Ma diciamo che non è facile descrivere Berlusconi, come non è stato facile produrlo in questi 3 anni, quindi è un film da vedere più che da descrivere, a metà tra il documentario, la narrazione, la finzione, ma non troppo, dove non si sa bene qual è il limite tra realtà e fantasia. Senti, per, dicevi, ecco, questi tre anni, che difficoltà ci sono state rispetto alla realizzazione? Ma difficoltà obiettive, anche finanziarie, ma soprattutto anche difficoltà di trovare la strada giusta. Si era partito, come si dice nello stesso film, per fare un film inchiesta, un film indagine, poi a metà strada ci siamo resi conto, mentre montavamo, un film fatto di interviste, abbiamo girato più di 257 ore di materiali e di riscontri vari, che la strada del film d'inchiesta puro e semplice non era adatta per il cammino che Franco intendeva in realtà intraprendere. Poi è avvenuto l'incontro con il vero protagonista, Ciccio Mira, e questo mondo delle feste di piazza, e quindi è stata anche una svolta per la ricerca, una svolta per la narrazione. Senti, si parla di un quartiere palermitano in cui c'è forte comunque una cultura indubbiamente mafiosa. Come avete vissuto quella realtà? Ma diciamo, sono realtà che conosciamo sia io che Franco da palermitani, cresciuti in quella realtà. Non è una realtà che riguarda solo Brancaccio, non è una realtà che riguarda solo Villa Grazia di Palermo, è una realtà che si può trovare anche limitrofa al centro storico, la connivenza, con un certo vecchio gusto di cultura mafiosa che si confronta anche con la nuova realtà, una mistificazione generalizzata, le contiguità tra mondo politico e mondo mafioso. Insomma, sono realtà che hanno una storia vecchia e che continuano purtroppo sempre più attuali. Senti, uno degli elementi spiazzanti del film è un confine labile tra realtà e finzione, che è proprio comunque del cinema di Maresco. Ma diciamo che oggi il confine labile tra realtà e finzione è proprio anche del mondo giornalistico, della realtà contemporanea, dove possedendo i mezzi adeguati basta affermare perché ciò venga trasformato in realtà, ma spesso realtà non è. Senti, rispetto alla realizzazione del film, ho visto tra i titoli di coda il contributo anche di Attilio Bolzoni, che abbiamo ospitato qui anche al Radio Teatro con un suo importante lavoro che è Parole d'Onore. Ecco, qual è stato quali sono stati i contributi altri alla realizzazione del film? Ma diciamo, ci sono un numero rilevante di giornalisti impegnati a dare una corretta informazione, come Attilio, che si sono prestati, che hanno fatto un viaggio sino a Palermo e si sono prestati a delle lunghe interviste, un materiale che ancora abbiamo in archivio e che probabilmente vedremo anche di utilizzare in altra forma, materiale che poi nella definizione del film, come è uscito ad Essenziale, come è stato presentato a Venezia, non ha ovviamente trovato spazio. Senti, uno degli elementi di spicco anche come trovata nel film è la presenza di Marcello Dell'Utri. Ecco, che ci dici di quell'incontro? Ma come un po' si racconta anche nel film, c'è voluto del tempo, ma Dell'Utri, da buon palermitano, ha accettato di confrontarsi con un altro palermitano. A quel punto è venuto fuori quello che si vede nel film, che è un po' il momento in cui si interrompono le riprese per un guardo venuto. Però mi senti? Ecco, dovresti ripetere, perché curiosamente non si sono interrotte solo le riprese del film, ma anche il collegamento. Ogni volta che si parla di Dell'Utri si interrompe l'audio, in un modo o in un altro. Guarda caso. Che è stato un incontro accettato tra due palermitani, Franco Maresco lo ha proposto e Dell'Utri lo ha accettato. Non è stato semplice farlo venire a Palermo, perché era impegnato in ovviamente altrove, però poi si è materializzata la possibilità. Quindi l'incontro è avvenuto e c'è stato realmente questo inghippo tecnico che ha creato un buco sonoro, però in realtà esiste qualche un'ora o più forse di conversazioni, alcune di queste, come la poesia, la citazione alla poesia di Montale, sono state messe in rete in questo periodo di lavorazione, e comunque sono là, anche quelle attendono uno spazio per materializzarsi diversamente. Questa prima settimana di programmazione com'è andata? Ma questa settimana di programmazione è andata abbastanza bene, ovviamente si tratta di una produzione a basso budget, di una... Ti ho riperso nuovamente. 5 copie, siamo usciti in sala la prima settimana con più copie del previsto, con 38, e questa seconda settimana proprio stamattina in distribuzione. No, il destino dell'audio è di era di crollare. Sì, un audio che ci perseguita. Un audio che ci perseguita. Allora, dicevi delle 38 copie iniziali e che sono diventate più di 50 adesso. Sono adesso 52, me lo diceva adesso Renato Borghero della Partenos. Questo ci fa piacere perché il film sta crescendo. Va tenuto in considerazione che abbiamo fatto la scelta di uscire quasi in contemporanea col festival il 4 settembre, che è un periodo abbastanza di bassa affluenza nelle sale, quindi non ci lamentiamo di quello che abbiamo fatto. Abbiamo una resa copie che è al quarto posto, è il primo tra gli italiani, però vedremo, non si tratta qua di essere primi o secondi, si tratta che di sollecitare il pubblico a vederlo nell'interesse di tutti. Penso che sia un film che valga la pena di vedere, non perché l'ho prodotto, ovviamente. Senti, per quanto riguarda, vabbè, ed è delle aspettative, ce l'hai detto, ma delle difficoltà che hai incontrato proprio nella distribuzione, questo è un elemento interessante e curioso. Ma diciamo che oggi non è facile distribuire un prodotto italiano, si produce poco e di quel poco che si produce solo il 20-30% vede la luce delle sale cinematografiche, non quella del sole, quella sì. Del sole arriva dopo, quindi sicuramente non è facile. C'è un meccanismo commerciale che facilita la grande produzione cinematografica, i prodotti più commerciali, in particolare quelli americani, ma non solo. Quindi districarsi in questo ambiente è un po' anche come nel settore librario, i piccoli editori trovano spazi difficili, nel settore cinematografico le piccole produzioni non trovano spazio, noi anzi lo abbiamo trovato e stiamo sostenendo il nostro prodotto insieme ai distributori. Non c'è forse anche il rischio che la gente si senta esausta dopo un ventennio di questo tipo e rimuova velocemente? Ma il film non è soltanto un film su Berlusconi, sì. Quindi non è un film sul ventennio, quello era probabilmente il progetto iniziale, sì. Che non era un ventennio all'epoca, ma era un diciassettennio, però obiettivamente il film naviga altrove, naviga su questa figura, su quello che resta di questa cultura, che è di estrema attualità, di questa cultura berlusconiana che comunque c'è, di questo mondo limitrofo all'illegalità, di questa impossibilità ad avere nel nostro paese delle regole chiare e uguali per tutti. Oh, questo rapporto particolare della Sicilia con l'ex presidente del Consiglio è sintetizzata in uno dei passaggi del film proprio da uno dei protagonisti, col fatto che mangiava e faceva mangiare. Ecco, tu come la sintetizzeresti questo rapporto privilegiato? Ma diciamo che è un rapporto che purtroppo è piaciuto a lungo a una maggioranza degli italiani e penso che continui a piacere. Gli italiani cercano sempre di aggiustare le cose, hanno sempre avuto il culto della raccomandazione, il culto di sentirsi particolari, per questo forse Berlusconi ha avuto tanto successo, quindi non credo sia solo un fenomeno siciliano. La Sicilia diventa, come diceva anche Leonardo Sciascia, una metafora. La Sicilia, ricordiamolo, anche politicamente è stato terreno fertile di sperimentazioni, anche per la stessa Forza Italia. Sì, sì. Bene, allora ricordiamo dal 4 settembre scorso in sala, le copie sono arrivate a 52 per Berlusconi, una storia siciliana. Rehan, io ti ringrazio e magari ci diamo appuntamento per le prossime novità. Senz'altro, ringrazio voi e ringrazio gli ascoltatori per la pazienza. A presto. Arrivederci. Ciao, e speriamo che l'audio regga. Ciao. Ciao. Rehan Mazzone, produttore del documentario Berlusconi, una storia siciliana. Allora, parliamo adesso delle prossime proposte nel territorio romano. Nel ricordarvi anche che riprende la rassegna Voce Volto nel quartiere del Trullo, al centro sociale occupato Ricomincio dal Faro. Questa sera c'è la proiezione del film Quadrofini alle 21:30, come al solito in lingua originale sottotitolato. E nel parlare di programmazioni arriviamo a uno dei nostri cineclub di riferimento, che è il Detour. Ne parliamo con Sergio Ponzio proprio per la programmazione di settembre. Sergio, ci sei? Ci sono Federico, ciao, ben ritrovato. Grazie anche delle belle parole. Mi piace che siamo riferimento per la scena romana dei cinefili, insomma, noi come altre realtà che lavorano tutti i giorni per portare, certo, il cinema più nascosto. Allora, mi avevate segnalato alcune proposte per questo, sì, settembre. Una, tra l'altro, l'abbiamo condivisa, perché il film, che uno dei documentari che proporrete, l'abbiamo anche presentato al Teatro Valle Occupato. Allora, sì, parlaci un po' diffusamente di questo settembre. Allora, cominciamo stasera, riapriamo stasera dopo la pausa estiva. E il cinema, vabbè, si è un po' fatto un piccolo restyling, quindi è un po' aumentata la capienza della sala, c'è stato qualche miglioria tecnica ed estetica, insomma, siamo stati a lavorare appena tornati dalle vacanze per sistemare un po' il locale. Riapriamo stasera con un bel documentario che è stato nomination Oscar nel 2013, il titolo è Cutie and the Boxer di Zachary Enzerling, è un film del 2013, la storia di una coppia di artisti giapponesi, Usho e Noriko, quindi una storia d'amore a cui si accompagna la grande passione per l'arte contemporanea. Adesso i due signori sono ultra ottantenni, ancora con la cresta punk, e sono stati dei rivoluzionari dell'arte giapponese degli anni 70. La loro tecnica consisteva nel dipingere colpendo le tele con guantoni da box, quindi da qui poi il titolo The Boxer. E tanta fama ma pochi soldi, quindi i due oggi vivono i limiti della sopravvivenza, sommersi dalle loro tele, dalle loro opere, dal loro disordine. E il documentario è molto bello perché contiene materiali d'archivio forniti da varie fonti, Super 8 degli stessi artisti, e interviste, animazioni delle loro opere. Il film è stasera, domani sempre alle 21, e poi di nuovo martedì 16 e giovedì 18. Proseguendo con la programmazione posso segnalare Salinger, che sarà proiettato sabato 13 e domenica 14. Salinger, il grande scrittore statunitense, Il mistero del giovane Holden, il sottotitolo dell'edizione italiana, e lo scrittore rivoluzionario, diciamo, del periodo postbellico, che è un po', diciamo, risvegliato dal torpore la letteratura del dopoguerra. Il giovane Holden, fortunatissimo, è unico romanzo accertato, e diventato, diciamo, un'opera cult per generazioni e generazioni di giovani. Ed era uno scrittore strano, schivo, non sopportava molto i media e viveva, insomma, appartato. Quindi, insomma, si racconta molto su di lui, a suo malgrado in qualche modo, e ci sono interviste ad amici, a persone che lo hanno conosciuto, e insomma si parla di grande letteratura e di uomini che in qualche modo hanno cambiato con la loro arte il corso degli eventi. È un film bello che proietteremo soltanto mercoledì 17, Short Term 12, un film di Destin Daniel Cretton, sempre del 2013. È un film bellissimo, secondo me, a livello stilistico, a livello di contenuti, una bella storia ambientata in un in una casa per giovani disadattati, per giovani con problemi, e gestita da una coppia di poco meno giovani, che anche loro con un passato di molestie, insomma di violenza, che quindi riescono a capire meglio di tanti altri educatori le problematiche di questi ragazzi. Il film è, secondo me, raccontato senza nessuna retorica, con una grande tenerezza per i protagonisti, e lo consiglio a tutti. E arriviamo al film che dicevi, di cui parlavi, Federico, che è An Anarchist Life, che proietteremo giovedì 25 settembre. Film di Ivan Borman e Fabio Toik, un film del 2011, un documentario. La serata prevede anche l'incontro con il regista. È la storia di Umberto T, un anarchico, un militante, una storia esemplare, insomma, che un po' ripercorre il nostro Novecento, le lotte, le battaglie sociali del secolo appena trascorso. Sì. Il personaggio è Umberto Tommasini, che di mestiere faceva il fabbro, nasce nel 1896, friulano di origine. E, insomma, attraverso la sua storia si racconta molto di quelle che sono state le battaglie dal basso nella società italiana, ecco. Non solo, perché poi è stato pure in Spagna a combattere per la Repubblica. Certo, certo, era un internazionalista, sì, vero, insomma, sì, quindi sì. Sicuramente. Sì. Per concludere, a fine mese abbiamo l'Optical Theater Film Festival, che è il primo festival dedicato all'horror che ospitiamo al The Tour. Ci sarà un po' di tutto: fantasy, cinema grottesco, sarà un po' circense l'ambientazione, molta ironia, ci saranno dei presentatori. E tanti film, tante anteprime internazionali e retrospettive di grandi film del passato, e ci saranno ospiti, attori, autori di colonne sonore. Insomma, vi do appuntamento per questo settembre. Noi, insomma, abbiamo lavorato per gli spettatori e speriamo di avere un buon riscontro. Ci dai riferimenti internet? I riferimenti internet sono sempre gli stessi: www.cinedetour.it, e sui vari social media cercate Cinema The Tour, Cine The Tour, insomma vi uscirà fuori sicuramente. Sergio, io ti abbraccio, alla prossima. Grazie Federico, grazie, a presto, ciao. Bene, è tutto per quanto riguarda Visionari di questa settimana. Si torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sulla puntata di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio, sulla pagina dedicata a Visionari, trasmissioni Visionari. Lì ci sono gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi, giovedì 11 settembre, i nostri indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per la programmazione dei film sul piccolo schermo nella settimana, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, ma anche l'archivio del 2014 e del 2013. Idem sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Ricordo sempre anche che ci potete ascoltare non solo in diretta sulla radio sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio, che ricordo è ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. È tutto, buon proseguimento, ci sentiamo giovedì prossimo.